9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, un buon venerdì 3 febbraio da Oscar Giannino. Il 3 febbraio è San Biagio, però siccome è anche Sant'Oscar, io mi faccio gli auguri da solo, perché Ansgarius in latino è l'evangelizzatore dei danesi, è sepolto nella cattedrale di Copenaghen, altrimenti detta Copenaghen, e quindi mi ci recai quando ero ragazzino alla ricerca di capire come mai avessi questo strano nome. Ho fatto anche una brutta fine, ovviamente l'hanno martirizzato. E oggi un giorno che sui mercati sembra abbastanza calmo, in questi ultimi giorni abbiamo portato a casa un progressivo raffreddamento degli spread italiani, quelli portoghesi invece continuano a segnalarci che il mercato aspetta le notizie dalla Grecia, ma almeno per oggi decido di abbonarvi, per così dire, il rituale appuntamento quotidiano con le notizie europee. Molte sono sul viaggio del cancelliere tedesco Angela Merkel in Cina, i giornali italiani anch'essi si prendono una giornata di riposo rispetto alle tensioni dell'euroarea, e così dominano una serie di notizie che invece si fanno alla politica interna, e così si va dagli approfondimenti allo scandalo dell'amministratore della Margherita Lusi. Manca sempre editoriali abbastanza forti che facciano notare come questo sistema, secondo me, di finanziamento dei partiti sia una vera e propria rapina moltiplicato per 10 quando se lo sono reintrodotto dopo il referendum con cui noi cittadini avevamo detto no al finanziamento dei partiti. Riapparve il rimborso elettorale, se lo sono moltiplicato per 10, a mio giudizio è una rapina. Un po' come lo Stato, che dice sempre ai contribuenti, noi, sempre a noi, naturalmente, che bisogna mettere la mano al portafoglio, ma poi si allarga sempre lo Stato. Anche quello è una rapina, sono due facce della stessa medaglia. Però un editoriale così non lo vedo, si è al tentativo di distinguere chi sono i buoni amministratori, chi i cattivi amministratori dei partiti, ed è giustamente, le responsabilità penali sono queste, ma però la decuplicazione del peso finanziario delle somme date ai partiti o la moltiplicazione dei palazzi di Camera e Senato negli anni allo stesso fine per i parlamentari, beh, di questo si preferisce un pochino sorvolare, per così dire. Invece sulla riforma del mercato del lavoro non solo mi tocca l'obbligo, ma è veramente, secondo me, molto interessante vedere l'approfondimento del Sole 24 Ore di oggi, l'intervista al presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che spiega come equalmente per la flessibilità in uscita il tentativo di introdurre un compenso ex ante per licenziamenti economici, levandoli quindi alla discrimini al vaglio del giudice, mentre resterebbero al giudice quelli discriminatori, può e deve essere inquadrato in una strategia che renda meglio capace il mercato del lavoro italiano di offrire più posti. Non è una questione ideologica, quindi da questo punto di vista anche Confindustria si allinea al tono generale di questo confronto che è tenuto dal ministro Elsa Fornero, in cui tutti dicono di non avere bandiere in mano ideologiche. L'essenziale è davvero questa volta riuscire a chiudere entro 3 settimane, come vuole il ministro, come secondo me è bene, perché questo è un classico tema su cui la politica italiana ha troppo a lungo rinviato. La Germania in 2 anni e con 4 interventi diversi ha rivisto tutti i suoi interventi di sostegno del reddito e di agevolazione dell'incrocio tra domanda e offerta sul mercato del lavoro. I tempi lunghi italiani sono come al solito una scusa per fare melina. Ricordo a tutti che noi abbiamo nella materia dell'occupazione un tasso di occupazione che attualmente è intorno al 56%, quello della Germania è al 71,5%, nella sola componente femminile siamo 20 punti di occupazione sotto da recuperare. Da noi lavorano 46 donne e nell'età lavorativa, da loro il 66%, quindi c'è moltissimo da recuperare. Molti anche indulgono sulla quotazione di Facebook. Io ricordo solo, chi volesse approfondire troverà in rete un mio contributo di analisi nel quale mi dichiaro totalmente contrario a questa, alle modalità con le quali si arriva a una ipotesi di valutazione di Facebook di 100 miliardi di dollari. Non ne sappiamo nulla tranne aver appreso nel documento di quotazione preparati da una grande banca d'affari che c'è un fatturato di 3.7 miliardi con un EBIT molto elevato e un utile che si dice intorno ai 600 milioni di dollari, ma multipli che sono 30 volte il fatturato e oltre 100 volte l'utile netto, peraltro di cui non si dichiara da quali fonti viene, quanto è fatto da pubblicità, quanto è fatto di altro, a mio giudizio dovrebbe indurre tutti a essere molto molto molto molto molto molto cauti. Ricordo a tutti che è vero che la Apple vale 430 miliardi di dollari, però ne fattura 125 e vende più di 100 milioni di device, smartphones, tablet ogni anno e così via, e che le ultime 8 quotazioni tecnologiche l'anno scorso sul mercato americano sono andate tutte male, e la differenza è tra quanto male e tra quanto peggio, per così dire. Quindi un po' di prudenza invece di pensare che Facebook possa voler valere davvero tutti questi denari. Ripeto, dietro c'è la zampa di una banca d'affari che un anno e mezzo fa prese una piccola quota, sulla base di quello iniziò a dire che valeva 50 miliardi e da allora ogni tre mesi ha iniziato a dire che arrivava questa grande IPO, collocamento sul mercato. Non abbiamo ancora imparato abbastanza dai difetti del mercato finanziario quando si tratta di creare bolle, soprattutto con brand che sono, come Facebook, effettivamente brand dei nostri tempi, tra i popolari. In questo la genialità di Zuckerberg è stata davvero degna di essere premiata. Ma andiamo al tema del giorno. Il tema del giorno con tutto questo non ha niente a che vedere, perché è un tema di cui si è parlato pochissimo dopo il decreto delle liberalizzazioni, il decreto cosiddetto Cresci Italia, perché c'è un articolo di questo decreto che interviene in una materia molto, molto delicata. Ci lamentiamo sempre che la componente dei consumi interni è una componente strutturalmente debole del nostro meccanismo di crescita, del suo contributo all'output potenziale del nostro paese, e in questa materia l'articolo 62 del decreto sulle liberalizzazioni è intervenuto in una parte delicata, quella che disciplina i rapporti tra grandi distributori e produttori, quindi le grandi marche italiane, quelle che sono molto rilevanti nei consumi, nelle abitudini alimentari, ma non solo alimentari, del nostro paese, e il sistema della distribuzione, della grande distribuzione, che è una catena che origina nelle aziende produttrici, c'ha il meccanismo dei grossisti che si occupano poi di fare la distribuzione territoriale, e che poi c'ha il terminale della distribuzione, della grande distribuzione o della piccola distribuzione. Ecco, all'interno di questa catena il decreto sulle liberalizzazioni, all'articolo 62, si è posto un obiettivo. Questo obiettivo era quello di rendere meno asimmetrici i rapporti tra queste tre diverse parti della catena, e quindi è intervenuto nel merito di come devono essere formulati i contratti che disciplinano i tre anelli. Quindi ha dettato una serie di norme molto prescrittive, molto apparentemente del tutto poco liberali, che con le liberalizzazioni quindi c'entrano niente, perché liberalizzare significa rendere più sciolti i rapporti. Qui invece le si è resi molto più prescrittivi, perché si è prescritto che questi rapporti contrattuali devono essere tutti in forma scritta, devono contenere alcune indicazioni che sono obbligatorie, perché altrimenti i contratti stessi diventano nulla. Quindi deve essere precisamente indicato la durata di questo contratto, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il suo prezzo, le modalità di consegna e pagamento. Dopodiché anche sui tempi dei pagamenti si indica in maniera prescrittiva dei termini molto brevi. E questo ovviamente con la finalità di impedire che di anello nella catena si sposti ciascuno sull'altro il ritardo dei pagamenti, che è diventato, man mano che sono cresciute le nostre difficoltà, uno dei problemi fondamentali del nostro paese, e che alla fine rischia di tradursi in un maggior costo a chi ovviamente al compratore finale da questo punto di vista. Quindi come valutare questo intervento e come è valutato da parte delle diverse parti della catena distributiva nel nostro paese? Come un sollievo o come un intervento troppo prescrittivo? Naturalmente sullo sfondo di queste considerazioni c'è un discorso che riguarda tutto il mondo delle grandi marche e tutto il mondo dei distributori all'ingrosso e poi il mondo della grande distribuzione e del piccolo commercio al dettaglio, perché questa catena è la catena attraverso la quale poi si fanno i consumi degli italiani e si creano anche le dinamiche inflattive più o meno elevate per gli italiani, e quindi dobbiamo per forza tenere sullo sfondo anche, oltre a queste considerazioni su questa parte dei provvedimenti del governo su cui si è abbastanza sorvolati da parte dei media generalisti, ma tentare di fare anche un punto su come vanno le cose per l'industria delle grandi marche italiane e dall'altra parte per il sistema della distribuzione e per quello che arriva sugli scaffali e che poi se ne va dalle tasche degli italiani. Ecco, allora iniziamo a presentare il nostro primo ospite, ne avremo quattro oggi, ed è con noi per parlarne Luigi Bordoni, che è il presidente di Centromarca, quindi l'associazione che raccoglie proprio aziende tra le più note che sono attive e presenti sui mercati italiani. Buongiorno e grazie a Luigi Bordoni. Buongiorno, grazie a voi. Allora, presidente, innanzitutto posso chiedere dal vostro punto di vista e delle aziende che rappresentate questo intervento del governo, com'è da valutare? Positivamente, negativamente, che problemi avrà e che garanzie secondo voi aggiuntive o problemi aggiuntivi introduce? Allora è difficile sintetizzarlo in un giudizio univoco, in questo senso, noi sappiamo, come sanno i nostri amici della grande distribuzione, che il tema dei rapporti tra grandi produttori, diciamo in generale tra produttori e distributori, necessita anche nel nostro paese, come negli altri maggiori europei, di una regolamentazione, non posso dire maggiore perché non ce n'è praticamente nessuna. E tanto è vero che dal 2007 che noi abbiamo in atto un tentativo, prima in sede governativa, poi su tavoli privati, di regolamentazione attraverso autodisciplina. Siamo arrivati al 2012 con un nulla di fatto. Questo significa, non sto a dire se colpa nostra o colpa loro, diciamo che non siamo stati abbastanza bravi. La materia quindi sappiamo bene che deve essere regolamentata, non riuscendo noi era abbastanza prevedibile che a un certo punto fosse intervenuto il legislatore. Noi non amiamo gli interventi che lei ha definito così prescrittivi, un po' dirigistici, come deve essere fatto in una materia che è di una complessità che solo gli addetti ai lavori conoscono. Quindi noi da sempre siamo per l'autodisciplina, però non riuscendo ad autodisciplinarci è inevitabile che sia intervenuto. Nel merito di queste disposizioni certamente ci sono delle prescrizioni addirittura inapplicabili lì dentro, però ci sono anche tutte le materie sulle quali credo che nessuno possa dissentire, che debbano esserci dei pagamenti che non vadano, come in alcuni casi succede, a 3, 4, 5, addirittura 6 mesi. Noi abbiamo i termini di pagamento più lunghi in Europa con i maggiori ritardi, quindi lì bisognava intervenire, e penso che nessuno voglia, come perché il decreto prevede che non si possa fare, che ci siano clausole abusive o comportamenti sleali. Sul resto la nostra proposta, che io ho già veicolato proprio attraverso il Sole 24 Ore, è che i soggetti interessati insieme propongano delle soluzioni perché non siano troppo stringenti o addirittura inapplicabili alcune parti di queste disposizioni. Facciamo qualche esempio delle parti inapplicabili a vostro avviso. Lei l'ha descritto molto bene, per esempio là dove si dice che ci deve essere in tutti i casi la forma scritta. Lei capisce che un grande produttore che ha migliaia, forse in alcuni casi magari decine di migliaia di clienti, se pensiamo al dettaglio tradizionale o il canale cosiddetto Recade, dei ristoranti, pubblici esercizi eccetera, lì non è possibile evidentemente come prevedere puntualmente sempre le quantità, i termini di consegna, questo diventa veramente diventano adempimenti pesanti, impossibili direi da realizzare, quindi direi insieme queste cose si possono correggere. Credo che nessuno possa andare a proporre che venga reinserita la possibilità di, leggo qui dal decreto, condotte commerciali sleali, prestazioni indebite unilaterali, subordinare i contratti a circostanze strane, condizioni ingiustamente gravose, cioè quello che è ingiusto è ingiusto, e questo decreto cerca di facilitare un rapporto più corretto. Nella relazione che l'accompagna è spiegato molto bene la ragione di questo intervento, che è quella di riequilibrare un po' il power tra produttori e tra fornitori e clienti, e quindi credo che bisogna tenere presente che questo è l'obiettivo, quindi potrebbe essere anche da nostra parte, questa è la nostra proposta, di lavorare insieme per chiarire, per mettere a punto e per eliminare le cose che creano maggior peso. Sono usciti dei dati, ieri mi ha colpito un articolo sul Sole, però mi ha colpito, ma sono andato anche a vedere che poi i dati sono elaborati dalle Coop, quindi sono di parte, ecco. Però l'articolo ieri proponeva una specie di graduatoria in tempo reale, non so con quanta accessibilità davvero ai dati reali, visto che faceva un resoconto di calo in fatturato e quindi variazioni percentuali in volume e in valore praticamente per tutte le grandi aziende italiane, da Barilla, Nestlé, Ferrero, Kraft, Parma, Granarolo, Danone, delle quali moltissime io so che non abbiamo ancora la chiusura del bilancio, però lì c'era una graduatoria e la tesi che usciva, insomma, era che per via della crisi, per via degli scioperi poi dell'autotrasporto, una cosa e l'altra, c'è in generale per le grandi marche italiane una specie di posizione singolare per le quali ha contenimenti quando significativi, quando addirittura molto significativi dei volumi di vendita, ci sono comunque aumenti in valore. In altre parole, le grandi marche italiane sarebbero un po' responsabili dell'inflazione, dell'accentuarsi delle dinamiche inflattive poi al consumatore finale. In realtà, dal vostro punto di vista, le cose come stanno? Ma guardi, allora, che gli andamenti di mercato siano come dire, pesanti, riflessivi, eccetera, questo riguarda tutto il mercato. Ricordo però che il prodotto di marca in Italia continua ad avere una quota di mercato elevatissima, intorno al 70%, di gran lunga la più alta tra tutti i paesi industrializzati, perché abbiamo un consumatore esigente, attento alla qualità, cerca di spendere il meno, ma non rinuncia al meglio, quindi questa è un po' la situazione di fondo. Detto questo, non credo che si possa imputare all'industria di marca questo, basta prendere i dati dell'ultimo decennio, noi vediamo che l'andamento sul mercato dei nostri prodotti è stato al di sotto dell'inflazione e il prezzo che viene fatto al pubblico sui nostri prodotti è al di sotto della media del settore. Quel prodotto di marca mediamente, certo questo avviene attraverso le promozioni fatte al consumatore finale, ma non è immaginabile che il peso della promozione, quindi la riduzione dei margini, gli sconti al consumatore finale, siano fatti a sole spese del distributore, questo non esiste assolutamente, e quindi le promozioni sono nella quasi totalità frutto di azioni congiunte del distributore e del produttore, quindi teniamo presente comunque che nel decennio passato i prezzi dei nostri prodotti sono mossi intorno alla metà dell'inflazione. Quindi i mercati sono estremamente concorrenziali, i nostri prodotti passano attraverso tre livelli di competizione tra produttore, poi nella competizione verticale tra produttore e distributore che cerca di comprare al meglio e poi ancora tra distributori. Pensare che si possa creare inflazione con questo meccanismo è evidentemente fuori luogo e i dati di mercato appunto dimostrano che noi ci muoviamo mediamente non solo come beni di consumo di sotto l'inflazione, ma poi il prodotto di marca in modo più come dire, deflazionistico rispetto all'andamento del settore di appartenenza. Eccoci tornati qua in studio, intanto alcuni flash, per così dire, europei. Vi segnalo per quanto riguarda la lotta per l'avvicinarsi delle presidenziali in Francia il 22 di aprile, il sondaggio singolare proposto ieri da Le Monde. Dico singolare perché hanno proposto per la prima volta un sondaggio distinto, oltre a quello generale, cioè su un campione rappresentativo dell'intera popolazione in diritto di voto francese. Le Monde ieri pomeriggio proponeva un criterio diverso, hanno fatto un sondaggio sulla base degli occupati, di chi ha un lavoro. E se votassero solo gli occupati, secondo il campione di Le Monde, addirittura Sarkozy sarebbe terzo, è terzo oggi nell'ordine di preferenza, nel senso che non solo ampiamente battuto da Hollande, il candidato socialista che ha il 27% nel sondaggio, ma anche battuto da Marine Le Pen, la candidata del Fronte Nazionale di destra, che avrebbe il 24%, Sarkozy solo il 18%, e poi il centrista François Bayrou il 13%, e c'è poi quello dell'estrema sinistra, Jean-Luc Mélenchon, che arriverebbe solo all'8%. Fatto invece sul totale della popolazione alle urne francesi, il sondaggio comunque vede larghissimamente in testa sempre Hollande al 28% e Sarkozy è un 22%, solo un punto e mezzo più in su di Marine Le Pen. Quindi le cose per il presidente francese si mettono di male in peggio. Poi, tra tutte le notizie che vengono dalla Cina dopo l'incontro con Meng Jiabao e Angela Merkel, quella che più ci interessa come europei è forse quella relativa alle fonti ufficiali cinesi che avrebbero dichiarato nel corso dell'incontro con il cancelliere tedesco la disponibilità della Cina di mettere fino a 500 miliardi di dollari aggiuntivi nel Fondo Monetario Internazionale, ed è evidente a cosa servano. Servono proprio per interventi su paesi europei in difficoltà, come la Grecia e dopo la Grecia. Quindi i cinesi, per tramite dei tedeschi, e quindi facendoci capire che però bisogna assecondare le condizioni di Berlino, sono disposti a dare una mano. Nel frattempo ricordo a tutti che l'accordo ancora in Grecia non c'è sulla percentuale di taglio al debito greco. E un'ultimissima cosa. C'è un incontro dei ministri delle finanze dei paesi che hanno la tripla A, sono diminuiti dopo i downgrading delle agenzie che misurano la sostenibilità dei debiti sovrani, ma è un incontro di quelli che hanno la tripla A in Europa, e quindi praticamente oggi a Berlino si vedono, oltre naturalmente ai tedeschi, i ministri delle finanze dell'Olanda, della Finlandia, del Lussemburgo, e quindi Francia e Austria non ci sono più. Ecco il nucleo della euro, come vogliamo chiamarla, la parte germanica dell'euro, la parte di un potenziale moneta del nord, ecco, sono rimasti in questi quattro, si vedono, sarebbe interessante che qualche media italiano approfondisse di che cosa si parla davvero in questa riunione, nella parte più solida e diciamo così teutonica della nostra moneta comune. Ora torniamo al nostro tema. Il tema di oggi è quello dei rapporti tra aziende produttrici, distributore all'ingrosso e poi grande e piccola distribuzione commerciale da cui gli italiani vanno a comprare. È un tema su cui è intervenuto, lo abbiamo ricordato, con il presidente di Centromarca Bordoni, il governo, con l'articolo 62 del governo sulla liberalizzazione. Abbiamo visto l'introduzione di una disciplina molto prescrittiva dei contratti, cui fine era quello di garantire le parti più esposte, più deboli nella catena che va dalle aziende attraverso i grossisti poi alla distribuzione e al cliente finale. Sentiamo altri ospiti che si sono aggiunti. Abbiamo con noi Vincenzo Tassinari, che è il presidente del consiglio di gestione di Coop Italia. Buongiorno Tassinari. Buongiorno a lei e a tutti. E Giovanni Coboligigli, che è presidente di Federdistribuzione. Buongiorno. Buongiorno. Allora, comincerei con Coboligigli. Dal vostro punto di vista di Federdistribuzione, l'intervento del governo con l'articolo 62 come va valutato? Bordoni prima ci diceva che ci sono alcune parti irrealizzabili, ma con un po' di buona volontà potremmo mettere a posto rispetto all'eccesso di normativismo di questa liberalizzazione un po' al contrario, per così dire. Lei che dice? Dico che ce ne vuole tanta di buona volontà, che l'articolo 62 sia inserito in questo decreto, che è un decreto sulla concorrenza e le liberalizzazioni, e in realtà è un decreto che non favorisce la concorrenza, questo articolo, ma che addirittura disciplina a favore di alcuni rispetto ad altri. Io sono comunque convinto che bisogna tutelare le parti più deboli, però le parti più deboli non sono tutti i produttori. Il principale difetto di questo articolo è che fa di tutte le erbe un fascio, nel senso che nel pensare di stabilire regole di pagamento ferre e rigide, non solo le stabilisce per il piccolo, e questo secondo noi è giusto, ma le stabilisce anche per il medio e per il grande. Ora io non vedo perché noi dobbiamo andare a pagare a 30-60 giorni una multinazionale della produzione, mentre invece sono convinto che andare a pagare i piccoli produttori, cioè coloro che per definizione della Comunità Europea arrivano fino a 10 milioni di euro di fatturato e hanno 50 dipendenti, questo lo trovo una cosa logica accettabile. Questo è il primo punto, il vulnus debole di questo articolo, che poi è stato formulato evidentemente in gran fretta, in una notte, e infilato impropriamente in questa legge, e che quindi contiene ancora tutta una serie di debolezze tecniche che devono essere messe a posto, perché sennò l'applicazione di questo articolo genererebbe il caos nei rapporti tra la produzione e la distribuzione. E direi che a quel punto gli effetti del caos non possono che poi vedersi a valle, secondo me, e il momento di stasi o di grande difficoltà dei consumi sarebbe meglio evitarlo. Tassinari, secondo lei la figura più debole che si intendeva tutelare con questo intervento qual era, e l'effetto rispetto a questo desiderio che ha ispirato l'intervento del governo, secondo lei è raggiunto, raggiungibile o è irraggiungibile anche con le correzioni? Lei che pensa? Ma io prima di tutto penso che sia una grande questione di principio, cioè si interviene per legge su delle norme che invece dovrebbero essere lasciate al libero negoziato fra le parti, e quindi io credo che ci sia anche un grande problema di contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, che dice che l'economia privata è libera. Quindi partiamo da questo presupposto. Noi eravamo molto disponibili, Cobolli Gigli ha già detto qualche cosa al riguardo, a fare un accordo che tutelasse la piccola e media impresa e anche gli agricoltori italiani. Che questo accordo consensuale sia stato messo dentro una normativa prescrittiva che alla fine tutela più che gli interessi dei piccoli e medi imprenditori e degli agricoltori, che noi paghiamo in modo assolutamente corretto. Se c'è qualcuno che è scorretto, c'è il codice civile che prevede di controbattere questo tipo di inadempienza. Quindi perché le inadempienze che evidentemente ci sono sul mercato debbono essere perseguite attraverso una normativa di legge che rischia di essere anticostituzionale? Questo è il grande interrogativo. Quindi noi eravamo d'accordo a fare un accordo consensuale, scusi il bisticcio di parole, che venga una prescrizione di legge che addirittura tutela gli interessi della Procter & Gamble piuttosto che della Coca-Cola. Questa è una cosa che assolutamente, anche in linea delle normative europee, è in fortissimo contrasto. Quindi c'è una questione di libero mercato, di libero negoziato fra le parti, c'è evidentemente qualche cosa da tutelare per la piccola e media impresa, ma non c'è assolutamente da prescrivere delle normative che dicono anche come i contratti devono essere fatti. Sì, sì. E quindi stabilire le quantità, stabilire le prestazioni un anno per l'altro. Ma scherziamo, siamo in un momento dove il mercato richiede invece massima flessibilità, massimo dinamismo, quindi prescrivere in un contratto tutto quello che succederà in un anno è veramente contro anche gli interessi del mondo delle imprese. Allora, aggiungiamo una quarta voce, quella è con noi Rosario Trefiletti, il presidente di Federconsumatori, perché dobbiamo prendere anche in considerazione l'effetto che tutto questo nella catena della distribuzione rispetto agli interventi previsti all'articolo 62, le tante critiche che Giovanni Cobolli Gigli, Tassinari, Bordoni ci hanno espresso, che cosa poi in concreto può venirne o non venirne per il consumatore finale che deve scegliere sugli scaffali se si trova i prezzi lì, l'effetto concatenato di tutto questo. Allora, il giudizio di Trefiletti di Federconsumatori su questo articolo 62, migliorabile, non migliorabile, la finalità che si presupponeva qual è? Ma innanzitutto buongiorno, io ritengo che è tutto certamente migliorabile, ma sicuramente per quanto riguarda la catena dell'intermediazione noi siamo perché ci sia il massimo della chiarezza e il massimo della trasparenza, soprattutto in una fase in cui i consumi sono in forte contrazione e soprattutto in forte contrazione per quanto riguarda le marche e la grande distribuzione. Ora è chiaro ed evidente che siamo di fronte a tentativi di miglioramento della catena, ma insomma ancora non ci siamo, non proprio. Abbiamo bisogno di interventi molto più chiari e molto più trasparenti. Quindi lei anche dice forse si è esagerato un po' con la prescrizione, oppure no? Perché sentire dire una norma che potrebbe paradossalmente tutelare molto di più i grandi gruppi, Coca-Cola, Unilever, eccetera, piuttosto che invece gli elementi deboli, certo fa riflettere. Certamente, lei ha perfettamente ragione, fa riflettere, sì. Noi non vogliamo che siano tutelati solamente i grandi gruppi. Il problema della distribuzione in una fase di crisi come questa e di forte contrazione dei consumi è quello di raggiungere obiettivi di tutela dell'intero sistema dell'intermediazione. E quindi sono d'accordo con lei, insomma, non si possono fare discriminazioni tutelanti verso grandi gruppi, mentre invece si corrono i rischi verso chi fa commercio nel piccolo dettaglio o altro ancora. Posso fare una domanda a Tassinari? Nel momento, diciamo così, di difficoltà crescente per il reddito disponibile degli italiani da destinare ai consumi come al risparmio, le diciamo, due componenti maggiori, adesso ovviamente così è una sintesi troppo quasi paradossale, ma per capirci, tra sistema Coop e grande distribuzione non Coop, non è che per caso il tentativo di buttare l'uno sulle spalle dell'altro l'effetto rincaro di fronte alla contrazione dei volumi è un po' il segno di una maniera di vivere il sistema della grande distribuzione italiana che appartiene un po' al passato, cioè non bisognerebbe essere un pochino più sinergici invece che buttarsi la palla l'uno nell'altro campo, o è un'impressione sbagliata Tassinari? Può essere che lei mi dica no, guardi, è lei che continua a guardare la realtà con un occhio del passato, nella realtà questa contrapposizione non c'è più, ciascuno cerca di fare il meglio. Ma guardi, lei ha toccato un tasto molto forte, molto condiviso, cioè in questa situazione di crisi dove i consumi sono crollati, credo che pensare di risolvere questa questione attraverso una norma di contratti e di dilazione pagamenti sia veramente fuori luogo. Qui noi siamo di fronte a una crisi strutturale. E nella crisi strutturale io credo che veramente tutte le parti debbano mettersi attorno a un tavolo per provare a capire come strutturalmente affrontare questa crisi dei consumi, che parte per primo dalle famiglie, dalla crisi dei poteri d'acquisto delle famiglie. Quindi agricoltura, industria e distribuzione dovrebbero invece trovarsi attorno a un tavolo per provare a capire come, anche migliorando l'efficienza, anche diminuendo la redditività soprattutto delle industrie, perché noi catene distributive in questi ultimi tempi abbiamo ridotto drasticamente la nostra redditività, noi distributori tutti insieme, non c'è distinzione fra Coop e altri distributori, noi il dato Istat di questi ultimi anni è molto chiaro: inflazione 15% media dal 2003 al 2010, inflazione dei prezzi di vendita delle catene distributive 5%, quindi noi abbiamo operato in termini di cambiamento in questa crisi per le tasche dei consumatori, ma non tutti in modo paritetico, quindi c'è bisogno di fare un discorso di sistema, questo è il punto, quindi l'industria venga con noi a capire come non si può aumentare i prezzi, come stanno aumentando anche nel 2012 sull'ordine del 5%, perché la tasca del consumatore non lo permette, quindi proviamo a capire come si può creare maggiore efficienza. Tutto questo ovviamente, come diceva lei, non con una parte che mette le dita negli occhi rispetto a un'altra parte pensando che, e qui è il grande tema di questo articolo 62, secondo me, che il ruolo della distribuzione moderna in Italia è visto come un ruolo speculativo, come un ruolo che strozza il mondo produttivo, che specula. Invece io credo che, come in tutti i grandi paesi europei evoluti, la distribuzione moderna è un motore virtuoso del sistema. Siamo i più grandi venditori dei prodotti industriali e dei prodotti dell'agricoltura italiana. Noi vendiamo 6 milioni di quintali di ortofrutta italiana, tutto fuorché quindi strangolare le 10.000 imprese con le quali abbiamo dei rapporti che sono collaborativi. Quindi queste manine che mettono questi articoli, che vogliono enfatizzare un ruolo della distribuzione moderna in Italia come un ruolo strangolatore, è assolutamente sbagliato. Forse qualcuno si mette la medaglia, finalmente siamo riusciti a punire i distributori prepotenti, però il problema è quello strutturale. Perché, allora, lei ha rivolto un appello, adesso noi abbiamo il minuto sulla informazione stradale, poi torniamo proprio su questo appello che l'intera filiera, dalle case produttrici fino alle distribuzioni, rifletta insieme per evitare che altrimenti poi la politica entri con delle iniziative estemporanee di maggior prescrittività, non di maggior liberalizzazione. Però vediamo questo appello all'intera filiera, a cominciare dalle aziende, col presidente Bordoni e poi di nuovo con l'opinione dei consumatori di Coboligigli, come se è giudicato realizzabile, perché in definitiva qui qualche cosa per rafforzare, rendendo sinergica invece che conflittuale l'intera catena, dalle aziende produttrici fino alla distribuzione e agli interessi del consumatore, bisogna inventarsela, perché effettivamente è uno dei punti di progressiva maggior debolezza di tutta l'economia italiana, e qui ce n'è per tutti purtroppo di debolezza in termini di costo che paghiamo, di indebolimento delle aziende italiane, di indebolimento dei migliori soggetti che esistono in tutta la catena poi del commercio, grande o piccolo che sia. E riparte come sempre ogni inizio, ma anche ogni fine di trasmissione, The End dei Doors. Sono molto lieto di aver contribuito al rilancio non solo di The End ma dei Doors, li risento rimbalzare, quindi in qualche maniera abbiamo contribuito alla consapevolezza delle difficoltà dell'euroarea, e auguriamoci che questi primi timidi sprazzi di rottura dell'atmosfera di tempesta si consolidino. Allora, siamo di fronte a un appello, diceva il presidente Tassinari, l'intera filiera dovrebbe mettere da parte il contrasto, insieme ragionare su alcune cose che forse impedirebbero quindi alla politica poi di pensare di fare interventi un po' estemporanei e un po' singolarmente irrealizzabili, come sembra questo articolo 62. A questo appello Luigi Bordone, il presidente di Centromarca, quindi con le grandi aziende produttrici, come risponde? Ma in maniera molto chiara, direi che le nostre posizioni praticamente da sempre sono che su questa materia si debba intervenire attraverso accordi di autoregolamentazione tra le parti. L'abbiamo sempre detto, l'abbiamo praticato nelle diverse sedi e è stato il mio concetto di apertura nella chiacchierata che ho avuto con lei, con voi questa mattina. Quindi non c'è mai stato rispetto a questo assolutamente alcuna deviazione, anche se magari tra i nostri associati può esserci qualcuno che preferisce una più prescrittiva normativa di legge. La posizione nostra è comunque questa, e la maggioranza delle nostre aziende ritiene che la complessità richieda un intervento, diciamo, elastico, concordato con i distributori. Per le parti, io direi che in presenza di questo articolo dobbiamo distinguere le parti che prevedono, che generano complessità, difficoltà di realizzazione, eccetera, bisogna intervenire insieme. Certamente poi, se parliamo di clausole sleali, abusive, di ritardi nei pagamenti, di queste cose qui, è sempre attraverso, direi, accordi, eccetera, però bisogna, non si vede perché si debba cercare di evitare queste pratiche solo nei confronti delle aziende minori e non delle grandi aziende, perché posso dirvi senza alcun tema di smentita che di queste pratiche soffrono anche i grandi produttori, e non c'è motivo per tenere in piedi dei comportamenti che non sono corretti solo perché l'interlocutore è grande. Questo mi sembra palesemente un non senso. Vorrei soltanto aggiungere che noi siamo anche, come so che sono i miei colleghi che sono al telefono, che sono in collegamento con voi, noi siamo molto determinati anche a lavorare insieme per cercare di sostenere la domanda, perché se il problema, come è stato ricordato più volte, è quello di una stagnazione di consumi, di un consumatore che è sempre più riluttante ad accedere all'acquisto dei nostri prodotti, dobbiamo cercare di fare in modo tutti insieme che attraverso il contenimento del prezzo, che è un impegno anche per le nostre imprese, perché lei citava prima gli andamenti pesanti dell'industria, in presenza di andamenti pesanti è chiaro, oltre che il rapporto di concorrenza di cui parlavo prima molto aspro, è evidentemente impensabile che le aziende ci marcino sui prezzi, questo sarebbe ancora una volta un controsenso. Qui dobbiamo lavorare insieme per cercare di portare al consumatore finale la miglior prestazione ai prezzi più contenuti, e anche direi per rendere attrattiva la nostra offerta, perché siamo in concorrenza anche con altri tipi di offerte magari più appetibili, magari più aspirazionali, che evidentemente impiegano poi potere d'acquisto dei consumatori. Quindi non solo massima apertura, ma direi conferma della linea che sin qui da anni seguiamo. Trafiletti, dal suo punto di vista cosa si può aggiungere? Perché questa tentativa... Io mi auguro che si passi però dalle parole ai fatti, perché concordo anch'io quando si parla che c'è una crisi da parte della domanda, lo sappiamo, siamo davanti a fatti concreti, a una forte contrazione dei consumi, e quindi è del tutto, diciamo così, insomma, ci fa un attimino adirare il fatto che c'è una diminuzione dei consumi, una forte contrazione soprattutto di quelli a marca, e invece i prezzi continuano a salire. È vero che c'è la componente delle tariffe insieme al tasso di inflazione, però i prezzi dei generi di prima necessità solo continuano a salire, e questo non ci piace affatto. Quindi sono anch'io per fare che si vada nella direzione di accordi interprofessionali per rendere l'intera filiera più razionale, più produttiva, per poter avere minori costi e minori prezzi, e quindi aiutare il lato della domanda. Io aggiungerei però che bisogna anche fare accordi interprofessionali comprendenti anche chi produce, perché insomma noi ci troviamo sempre di fronte a prezzi alla produzione, sto parlando del settore agroalimentare in questo caso specifico, molto bassi in relazione al fatto di quanto invece poi il cittadino compra sul mercato, nella grande distribuzione o non solo nella grande distribuzione. Giusto. Quindi bisogna fare accordi interprofessionali, tagliare le unghie ai costi, sprechi e speculazioni, e dare da questo punto di vista maggiore ossigeno alla domanda di mercato, che mi sembra veramente molto carente. Grazie a Trafiletti, Tassinari Bordone, grazie a Cobo Luigi che ho fatto parlare troppo poco, quindi lo rinviteremo. Appuntamento a questo punto a lunedì.